cosa fedele che t'accompagna e la mia voce tesa a prenderti le mani dall'oscurità alla luce, lanterna di cristallo sensibile alla tua pace, una coppola ai tuoi sogni quando tutto il resto tace. Seduto accanto ad un tesoro al sonno mi presento con la ninna nanna in un linguaggio d'armonia ad un canto, dall'ora della veglia scoccata dal tramonto, ad ogni costo in ogni notte finché respiro a stento, il sortileggio ad esplorare il cuore mi ha raggiunto, da quando a nanna in grembo a mamma fino al nostro incontro, purezza, vastità di gioia tutto in un momento, un ornamento a decorare in modo astrale ciò che sento, afrodisiaca dimensione di innocenza vive, regnanti al mondo dei balocchi e dame rispettive, elusa la menzogna blulica nel bene, e divinizzo un nutrimento d'amore senza una fine. Per intero, una magica pozione notturna, un siero, uno scettro per la sudità di questo impero, un talismano appeso al cuore che volteggia fortuna, un segreto che accomuna i pianeti, le stelle e luna, un sentiero indicato, battuto, un segno che continua, un desiderio cosparso nel vento, come una piuma, una gloria allo spirito in corsa alla meditazione, un sospiro di sollievo sopra il seggiolone. La ninna nanna un fascino inconsueto all'intrusione, una poppata prelibata data all'emozione, gradevole delizia un senso, un languore